America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Milano, Mario Platero. Sapete che c'è Barack Obama, in questo caso no, non sono al seguito del presidente Obama. Obama non è più presidente, è una pura coincidenza che ci si trovi in città nello stesso giorno. Però la cosa mi ha molto colpito, mi ha affascinato, mi ha portato alla memoria una gran quantità di ricordi, e vedere Barack Obama turista, insomma, colpisce abbastanza, visto la Pinacoteca Ambrosiana, il Duomo. Oggi andrà a vedere l'ultima cena e qui in città per partecipare alla terza edizione della conferenza di Seeds and Chip, The Global Food Innovation Summit, un vertice sulle innovazioni alimentari. Avrà le chiavi della città dal sindaco di Milano, da Giuseppe Sala, e questa è l'accoglienza che ha avuto. Sentiamo. Ecco, devo dire, con queste cose non è che vi do grandi notizie, l'avete vista in televisione, l'avete sentita alla radio, anche qui a Radio 24. Barack Obama però si è concesso anche una rimpatriata, ieri sera con amici italiani. Per me, di nuovo, la cosa aveva un gusto particolare, perché ho seguito i vertici con Mario Monti, che era alla cena, con Renzi, anche lui alla cena, e la nascita di un'amicizia con John Elkann. C'erano anche Luca Montezemolo, Diego Dalla Valle, Marcegaglia, Marco Tronchetti, Giampiero Massolo, cena all'ISPI, Palazzo Clerici, e Obama ha cercato di dare un quadro dell'America di Trump, con una promessa: il sistema dei check and balances, degli equilibri dei poteri americani, tiene, funziona. I margini di manovra del presidente Trump sono perciò limitati. Però su una cosa Obama è stato più ambiguo, sul fronte commerciale. E devo dire che da una conversazione parallela che ho avuto qualche giorno fa a Washington con quello che è stato il suo ex capo negoziatore commerciale, l'ambasciatore Michael Froman, ho capito perché. Perché l'America di Trump non è poi così diversa dall'America di Obama quando si tratta di proteggere l'interesse commerciale americano. Ecco, questo è un punto chiave che è emerso dalla chiacchierata con Froman, che è uno dei massimi esperti mondiali in materia di commercio internazionale. Ha negoziato per conto di Obama, fra l'altro, il TPP, il TTIP, cioè l'accordo per il libero scambio nel Pacifico, quello con l'Atlantico, e mi ha dato un quadro molto realistico delle tattiche commerciali che saranno usate dall'amministrazione Trump, partendo da un avvertimento. Ecco, questa è una notizia, secondo me. Attenzione, qui la notizia ve la do, perché cosa mi ha detto Froman? Che il surplus commerciale che l'Italia vanta nei confronti degli Stati Uniti, 28 miliardi di dollari di surplus, attenzione, è una cifra non da poco, supera il livello di guardia, e quindi il nostro paese in sostanza potrebbe finire nel mirino, cosa che non avevamo percepito quando ci fu la visita di Paolo Gentiloni a Washington. Diciamo, questa cosa era passata un po' in secondo piano. Nel mirino potrebbe anche finirci il settore bello e ben fatto, settore del lusso, settore dell'occhialeria, settore della moda, calzature, alimentare, arredamento, design e così via, così via. Ecco, se davvero fossero applicate le tariffe che Trump promette di applicare, questi settori perderebbero molti soldi. Le calzature, 200 milioni di dollari nel giro di alcuni anni, abbigliamento 180 milioni di dollari, oreficeria 23 milioni di dollari, occhialeria 300 milioni di dollari, alimentare, soprattutto alimentare delle carni, degli insaccati, 500 milioni di dollari. Ecco, proprio da questa sfida commerciale del bello e ben fatto che sono partito nella mia chiacchierata con Froman. Sentiamo. America 24. Bello e ben fatto, perché questo è il settore del bello e ben fatto. You look bello e ben fatto. So is Italy bello e ben fatto? What do you think about that particular industry in general? Well, first of all, I think it's important to note that Americans love Italy. Prima di tutto è importante ricordare che l'America ama l'Italia. Amiamo andarci come turisti e amiamo tutti i prodotti italiani, il cibo, il vino, la moda. L'Italia è un sinonimo di stile e credo che questo si rifletta anche nelle nostre relazioni commerciali. L'Italia però ha un grosso surplus commerciale, 28 miliardi di dollari. Questo dato sta diventando un problema con questa amministrazione, che vuole capire dove sta perdendo. E nel vostro caso si chiede, ci sono delle barriere commerciali contro il nostro export? Stanno facendo dumping nel nostro mercato? La risposta determinerà l'azione. Siamo ancora ai preliminari, ma il problema c'è. Ecco, Froman poi ha elencato alcune tecniche inusuali già utilizzate dall'amministrazione Trump. Ad esempio, si è deciso di applicare una oscura regola che autorizza azioni unilaterali di protezionismo se si registrano dei pericoli per la sicurezza nazionale, ad esempio in materia di importazioni di acciaio. L'acciaio serve per costruire carri armati, serve per costruire missili, armi, e ci sono delle ritorsioni, per esempio, in materia di carne agli ormoni possibili. E di nuovo Froman mi ha confermato che la Vespa potrebbe essere penalizzata se non ci saranno contromisure dell'Unione Europea dopo una condanna della WTO. In sostanza, per le carni agli ormoni siamo stati condannati. Abbiamo sbagliato, dobbiamo rimediare, non rimediamo, e dunque l'America ha tutto il diritto, non è che sia Trump che è improvvisamente impazzito. Questa è una cosa che era già cominciata con l'amministrazione Obama. Ha tutto il diritto, vi dicevo, di imporre delle tariffe ulteriori. Sentiamo Froman. The European Union lost a case of the WTO. L'Unione Europea ha perso la causa sulla carne agli ormoni con il WTO, ma di fatto non ha mai modificato le sue pratiche illegali. La Commissione ci ha detto, lo faremo nel contesto TTIP. Noi eravamo contrari, ma poi il TTIP è comunque saltato e a quel punto abbiamo detto, passiamo alle sanzioni. Nessuno ovviamente vuole andare fino in fondo, ma speriamo che queste minacce possano essere sufficienti per riportare l'Unione Europea al tavolo delle trattative. Lei mi chiede se c'è la Vespa. C'è una lista di prodotti, inclusi i ciclomotori, per cui sì, potrebbe esserci. Ecco, poi Froman ha provocato sulla questione dei prodotti a denominazione geografica, di nuovo una linea molto dura dell'amministrazione Obama, e c'è dunque un rischio anche per il bel e ben fatto che magari cada questo settore nella rete della sicurezza nazionale. It's hard to see that kind of analysis extended to Italian footwear, fashion. Credo sia difficile. L'acciaio serve a costruire carri armati, ma estendere la protezione della sicurezza nazionale a un paio di scarpe è difficile. C'è però un vasto consenso bipartisan sul fatto che il nostro sistema protegga migliaia di marchi commerciali dei prodotti di formaggio o di carni europei. Impediamo agli americani di sfruttare questi marchi per vendere i loro prodotti. Il nostro sistema commerciale, in sostanza, funziona molto bene per gli italiani e gli altri produttori europei, ma al contrario il sistema europeo di denominazione geografica non ci tutela per nulla. Spesso i produttori europei non capiscono i vantaggi. Ecco, una stima valga per tutte ed è stata elaborata dal Centro Studi di Confindustria. Se l'amministrazione Trump procederà con azioni contro l'Italia, e di queste azioni potrebbe adottarne molte, ad esempio introducendo una tassa al confine per compensare il programma di riduzioni fiscali, i nostri esportatori solo nel settore bello e ben fatto potrebbero avere un calo di 1,4 miliardi di dollari di esportazione negli Stati Uniti in 10 anni, e questo è un rischio per tutti che suggerisce una verità indiscutibile. Meglio parlare, discutere, negoziare, trovare un compromesso per evitare una guerra commerciale, perché questa non la vuole nessuno, non credo che la voglia neanche Trump, che paralizzerebbe l'economia mondiale. Da Milano è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!